Ecco, vieni qua per piacere un attimo. Dammi un abbraccio. Ah, avevo bisogno di un po' di affetto. Grazie. No, è perché mi avete visto dare i calci ai runner e qualcuno si è lamentato, no? Ha detto, la vuoi smettere di dare i calci ai runner che fanno un ottimo servizio e quindi lo abbraccio. Vi voglio bene, ci vogliamo bene? Quanti mi vogliono bene? C'è qualche mano che non si è alzata. Io vi voglio bene tutti, anche se non conosco tutti, e quindi voglio dare il benvenuto anche a chi è qui per la prima volta. Vogliamo fare un applauso? Sei il benvenuto. Siamo così felici di avere anche persone che ci vengono a visitare per la prima volta. Non lo diamo per scontato, perché entrare in un nuovo ambiente è sempre qualcosa di strano, a volte di scomodo, e quindi il coraggio che hai avuto nel venirci a trovare ci onora, ci fa molto molto piacere. Speriamo che per te, che tu possa avere una bella serata, davvero, che tu possa comprendere che quello che facciamo è per colui che è la cosa più importante delle nostre vite, cioè Cristo Gesù, e speriamo che possa diventare la cosa più importante della tua vita, perché Lui ha vita abbondante da darti, amore in abbondanza da darti. Lui è la cosa migliore che ti può succedere su questa terra, incontrarlo, viverlo, sperimentarlo. Ora, io prima di entrare nel messaggio e quindi condividere con voi il messaggio che abbiamo per questa sera, voglio mostrarvi quello che è un resoconto annuale delle finanze, che già, se lo dico così, probabilmente ognuno di voi si prende uno spavento. No, non è altro che un modo per essere trasparenti come Chiesa, perché se è vero come è vero che noi incoraggiamo a dare, noi incoraggiamo la generosità, noi incoraggiamo a onorare quelli che sono i principi biblici che ci mostrano che c'è gioia nel dare ed è importante dare e investire per l'avanzamento del Regno dei Cieli, allora è anche importante per noi come Chiesa incoraggiarvi a sapere e dare a tutti l'opportunità di avere trasparenza di quello che facciamo poi con questi soldi che raccogliamo. Perché è importante sapere prima di tutto che non vanno in tasca nessuno, ma sono tutti e pienamente, totalmente, ogni centesimo investito per quello che è l'avanzamento del Regno di Dio, per quello che è la Chiesa, per quello che è l'opera che la parola di Dio ci comanda e ci guida a fare come Chiesa. Quindi potete prendere una copia, in modo particolare io inviterei a prendere una copia per famiglia, così ci assicuriamo che tutti abbiano una copia. Quindi non ne prendete troppe, ma non risparmiatevi nel prenderla, perché è importante che potete prendere questo resoconto e leggerlo in modo particolare. So che a noi non ci piace leggere. Vabbè, non facciamo la domanda, perché dobbiamo mettere in imbarazzo chi non ama leggere? Lo so che ci sei in questa stanza, ti vogliamo bene comunque, e va bene così, Gesù ti ama, quindi però fai questo sforzo e leggi per una volta nella tua vita, leggi questo resoconto delle finanze, sono certo che ti farà bene ed è un modo efficace per mantenere una comunicazione trasparente e aperta come Chiesa, ed è bellissimo. Essere Chiesa, amen. È troppo bello essere Chiesa, siamo famiglia ed è bello poter condividere quello che viviamo. Ora, stasera abbiamo davanti una bellissima maratona insieme, abbiamo un messaggio davvero molto corposo. Stamattina io ho superato ogni record e quindi ho predicato e ho dato questo messaggio per ben 1 ora e 10 minuti. No, siete, guarda le facce come cambiano, persone che impallidiscono, certi che si sentono di svenire, tranquilli, è mia intenzione andare avanti nel battere nuovi record, che il Signore ci chiama a correre, ad essere disposti a battere. Vedo che c'è un applauso molto timido. Che ipocriti nel battere le mani. Quanti vogliono che vada avanti per più di 1 ora e 10? Che bello, c'è gente che non ha niente da fare nella vita. Grazie, grazie, perché è bello condividere la parola di Dio, è bello anche importante che sia condivisa in modo tale che sia assimilata. Per questo abbiamo un orologio lì che ci segna il tempo, che ci aiuta a, a amministrare bene il tempo, e quindi io voglio impegnarmi ad essere quanto più breve e conciso possibile, però al tempo stesso quello che è il messaggio che sto per condividere è qualcosa che mi sta profondamente a cuore ed è un messaggio che, di cui veramente la Bibbia, la parola di Dio è piena, ed è per questo che vorrei condividerlo non risparmiandomi, senza esclusione di colpi questa sera, va bene? Quindi di che cosa parliamo? Abbiamo già cominciato la domenica scorsa e quindi abbiamo già detto che queste due domeniche sarebbero state dedicate alla visione, a comprendere l'importanza di avere visione come chiesa e come individui, e quindi anche questa sera vogliamo andare avanti con questa tematica. Ed è la mia preghiera, la mia aspettativa più grossa, che ciascuno di noi possa vivere una vita di visione, che noi possiamo avere una vita che è ben orientata. Vi ricordate, la scorsa settimana abbiamo parlato di questi due aspetti che riguardano la visione. La visione è, ci parla di orientamento. Quando una persona ha visione, stiamo parlando di una persona che sa dove sta andando, e in più è una persona che sceglie chi o cosa sta motivando le sue scelte. Ora, se guardiamo alla vita, al percorso, alle scelte, alle giornate di Gesù Cristo, possiamo dire senza ombra di dubbio che Gesù era un uomo di visione. Lui sapeva con estrema esattezza dove stesse andando e da chi e cosa fossero motivate le sue scelte. Ed è per questo, proprio perché la parola di Dio ci invita ad essere imitatori di Cristo, che è il mio, proprio, il mio desiderio più grosso, essere io un uomo di visione. E vorrei che tu possa essere una donna, un uomo di visione, che tu possa avere una visione chiara anche per questo nuovo anno. È proprio per questo che parliamo di visione all'inizio dell'anno, perché abbiamo un intero anno davanti a noi, e io prego che il 2017 possa essere un anno nel quale tu sei ben orientato. Ti sei mai perso? Ti è mai capitato di perderti? Io mi sono perso tante volte, e una delle cose più brutte non è tanto perdersi in macchina o in moto, perché lì non hai altro da fare che continuare ad accelerare, cercare la tua strada. La cosa più brutta è perdersi quando sei a piedi, non è vero? Perché quando ti perdi a piedi è tragico, in quanto devi continuare a camminare e vai avanti e ti stanchi e ti disperi, e più non trovi la strada e più ti arrabbi. Io mi ricordo che qualche anno fa con un gruppo di voi, era un gruppo di ragazzi, andammo a Venezia, era di sera, faceva freddo, e facciamo un giro dentro Venezia, bellissima città, bellissimi ricordi quelli di Venezia che abbiamo tutti noi che ci sono stati, è stata una tragedia. Stefano, c'eri pure tu, uno di quei... Io ho chiesto a Stefano di non dire gli anni, di non essere troppo malinconico, perché stamattina mi è venuto a piangere, veramente. Quando è salito sul palco, 10 anni, ne abbiamo vissute di tutti i colori insieme, io ero là, non mi dire così, perché te ne vai? Non te ne andare. Quindi fra le tante cose, pure Venezia, ci siamo persi insieme a Venezia. E più cercavamo la strada e più non la trovavamo. Avevamo a disposizione i nostri bei smartphone, ma non c'era verso. Abbiamo cominciato a litigare, eravamo un gruppo di 9 persone circa, e a turno abbiamo scelto, perché mano a mano più persone si proponevano di essere i ciceroni di turno, la so io la strada, seguite me, poi ci perdevamo e quella persona si demoralizzava, cadeva in depressione, si buttava a terra, e qualcun altro si rialzava e diceva vi dico io da dove andare, e così abbiamo a turno vissuto questa esperienza che è stata proprio terribile. Io a Venezia non ci voglio più tornare, detto sinceramente. È una bellissima città, ed è così, tu puoi trovarti nel più bel posto di questo mondo, ma se sei perso, tutto cade in secondo ordine, viene stanchezza, viene depressione, viene rammarico, viene amarezza, e questo è vero anche per le nostre vite. La parola di Dio, l'abbiamo letto la scorsa settimana, non ci chiama solo ad una salvezza. Gesù non è venuto solo per salvarci, dice la parola di Dio, ma per darci anche una santa chiamata, una santa vocazione. Ci sono piani e progetti e opere, come abbiamo letto anche in un verso proiettato, quello del video, che sono state precedentemente preparate affinché noi le compiamo. Questa è la più bella notizia che io posso darti questa sera parlando di visione. La più bella notizia che io posso darti questa sera è che Dio ha un piano prestabilito per te. Lui ha il GPS, si chiama così, mi vedo in dubbio, la bussola, torniamo. Lui ha la bussola della tua vita, lui sa come orientarti al meglio, lui ha il percorso di vita migliore per te. Lui sa quali sono gli svincoli che devi prendere, dove devi girare, quando devi girare. Qualcuno ha detto anche che la scelta giusta fatta nel momento sbagliato può diventare la scelta sbagliata. Dio ha i tempi giusti, ha i modi giusti, ha la strada giusta per ognuno di noi e vuole che noi viviamo nei suoi piani, quei piani che lui ha precedentemente stabilito per noi affinché noi possiamo entrare in quella pienezza di vita alla quale lui ci ha destinato. Tu sei chiamata ad essere un uomo di visione, tu sei chiamata ad essere una donna di visione. Ora, è importante comprendere che non basta avere solo una buona visione. È buono partire da questo. Io vi ho incoraggiato la scorsa settimana, lo rifaccio questa settimana, proprio perché credo che sia tanto, tanto importante che noi tutti ci fermiamo e ci orientiamo e decidiamo in che direzione andare. Ed è qualcosa che è importante che facciamo, magari con la Bibbia alla mano, in un tempo di preghiera, con un bloc notes, e incominciamo a segnarci quelli che sono gli obiettivi che sentiamo che Dio ha per noi per questo nuovo anno. Le motivazioni che ci porteranno a fare le scelte in questo nuovo anno. Ora però non basta essere un uomo di visione, una donna di visione, per me è importante anche sottolineare che per noi è necessario, è fondamentale avere anche quella giusta visione. Non tutte le visioni di vita sono giuste. Noi siamo chiamati ad avere una giusta visione di vita. Qualche giorno fa, il 27 gennaio del 1945, è stato liberato il campo di Auschwitz. E da allora è stato stabilito che ogni 27 gennaio sarebbe stata la ricorrenza del giorno della memoria. Qualcosa che avete sentito probabilmente nelle notizie, qualcosa che tocca da vicino tutti noi. E noi quando ci confrontiamo con quello che è successo nel 1945, negli anni precedenti, durante la guerra, noi ci rendiamo conto che chi è stato artefice di tutto questo erano uomini visionari, persone che sapevano esattamente dove stessero andando e avevano ben chiare le motivazioni delle loro scelte. Però il fatto che loro fossero uomini di visione, donne di visione, non fa di loro dei santi, anzi, lo sappiamo molto bene. E lo sterminio, l'olocausto degli ebrei ci ricorda a quale livello di a quale basso livello siamo capaci di arrivare noi, quali uomini finiti, ribelli e lontani da Dio. Non basta avere una buona visione, non basta avere una visione, noi dobbiamo avere la giusta visione. Questo vale per te, questo vale per la tua famiglia, questo vale per noi come Chiesa. Dobbiamo avere una visione, è importante essere orientati, ma è anche fondamentale avere la giusta visione di vita. Intervistati alcuni militari dell'SS, anche recentemente, alla domanda: ti sei pentito delle scelte fatte, delle persone che hai ucciso, di quanto tu hai contribuito a questa pazzia generale, guidata, pilotata da uomini come Hitler, Himmler? Questi militari, sapete che risposta hanno dato? Noi credevamo che ci fossero le giuste motivazioni per fare tutto quello che abbiamo fatto. Noi credevamo fermamente che ci fossero le giuste motivazioni per fare quello che noi abbiamo fatto. Sapete, il problema di non scegliere di avere una visione, di essere orientati secondo quella che è la guida dello Spirito Santo, la parola di Dio e la nostra relazione con Gesù Cristo. Il problema di tutto questo è che qualcun altro può determinare la nostra visione di vita senza che noi neanche ci rendiamo conto. E un giorno potremmo ritrovarci a dire: pensavo che fossero le giuste motivazioni. Pensavo che ero mosso dalle giuste motivazioni. Sapete, quando qualcuno fa qualcosa, e questo qualcuno sono tanti, possono essere anche milioni di persone, non necessariamente perché lo fanno in così tanti, diventa la cosa giusta. E noi come Chiesa abbiamo il diritto e anzi ancora di più il dovere di distinguerci dalla società che ci circonda. Come Chiesa noi dobbiamo avere una visione che si distingue, che non si adegua e che non annacqua l'Evangelo, che non si adegua a quelle che sono le scelte della maggior parte. Oggi è in atto un genocidio che è sotto gli occhi di ciascuno di noi. Sto parlando dell'aborto. Oggi in atto c'è lo sfacedo delle famiglie. Sto parlando del divorzio. Oggi sono in atto così tante cose che alla luce della società sono qualcosa di assolutamente normale, qualcosa che ha le giuste motivazioni per esserci, e noi tutti purtroppo a volte contribuiamo a tutto questo piuttosto che distinguerci, separarci e avere quella giusta visione di vita che Dio ci sta chiamando ad avere. È tempo che come Chiesa noi ci distinguiamo e che lo facciamo con radicalità. Siete d'accordo, fratelli e sorelle? È tempo che noi nel 2017 diamo una risposta a questa società che va allo sfacedo proprio perché sceglie di vivere nella ribellione. Noi, quali cristiani, decidiamo di non vivere in ribellione, di non vivere guidati dalle emozioni, di non vivere guidati da quello che ci sembra giusto al momento, ma che viviamo secondo quella che è la luce e quella che è la verità che ci viene mostrata dalla parola di Dio. Amen? Ci piace questo? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo fare una cosa, vogliamo pregare. Io voglio pregare per noi come Chiesa, per ogni persona che in questo momento mi sta ascoltando, e voglio pregare che ciascuno di noi possa vivere la benedizione e il privilegio di una vita visionaria nella visione giusta, secondo la volontà di Dio. Se tu sei con me in questo, ti chiedo di alzare le tue mani e vogliamo pregare insieme. Padre, io ti ringrazio perché tu hai chiamato la Chiesa ad essere santa, cioè chiamata fuori. Noi vogliamo essere, Padre, distinti, separati da una società che va avanti guidata dalla maggioranza, dal pensiero della maggioranza. Noi vogliamo distinguerci quale popolo che è dipendente da quella che è la tua parola, da quelli che sono i tuoi comandamenti, da quelli che sono i tuoi principi e da quello che tu guidi ciascuno di noi a fare in virtù di quello che è il tuo desiderio di vedere noi risplendere in questo mondo di tenebre, in virtù del fatto che tu vuoi vedere noi, quale tua Chiesa, essere un sale che dà sapore a un mondo che è insipido. Io prego nel nome di Cristo Gesù per ogni persona che in questo momento desidera una vita visionaria secondo la visione giusta. Io prego per noi come Chiesa che in questo anno, nel 2017, possiamo distinguerci come una Chiesa che risplende, come una Chiesa che ha da dire alla società che ci circonda che c'è una strada migliore, che non è facile da vivere, che probabilmente non è accettabile secondo il pensiero comune, ma è la migliore perché porta a salvezza. Tu sei la via, Gesù, noi lo confessiamo questa sera. Tu sei la verità, tu sei la vita, e noi vogliamo solo e unicamente essere guidati da te. Amen. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Sì, possiamo fare un applauso. Siamo entusiasti di essere la Chiesa che siamo. Ora la domanda viene spontanea. Io potrei parlare così tanto di visione, ribadirvi quelli che sono stati 4 no che Mosè ha detto in virtù dei sì che Dio diceva sulla sua vita, però se siete curiosi e non avete ascoltato ancora questo messaggio, è disponibile su YouTube, andate, ascoltate. È così importante che noi assimiliamo questo messaggio e lo facciamo nostro, perché quello che ci siamo detti la scorsa settimana è che prima di poter parlare di visione di Chiesa, noi dobbiamo necessariamente parlare della visione mia e tua di vita. Perché la Chiesa non sono dei programmi, non sono delle attività, la Chiesa non è un'istituzione, non è un edificio, la Chiesa siamo noi, io e tu. E se noi abbiamo una chiara visione di vita, secondo quella che è la volontà di Dio, guidati da Dio, istruiti secondo la sua parola e in relazione con Cristo Gesù, allora inevitabilmente la nostra Chiesa sarà una Chiesa visionaria, sarà una Chiesa ricca di benedizioni, sarà una Chiesa che conquisterà più territori di quelli che ha conquistato finora. Però questa sera la domanda ce la vogliamo fare, ci vogliamo fare la domanda, ma noi come Chiesa che visione abbiamo? Qual è la nostra visione? E noi abbiamo davanti un anno meraviglioso, perché noi siamo dei visionari. Noi crediamo che la nostra Chiesa non è chiamata a fare degli incontri dove ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi. Noi siamo chiamati ad essere una Chiesa che ha un'influenza in questa provincia, in questa regione, in questa nazione e nelle nazioni. Qualcuno può dire, Mirko, forse stai un po' esagerando, ti stai un po' entusiasmando troppo. Ma sapete, questa non è la mia visione, questo non è il mio desiderio, questo non è il mio mandato, questo è il mandato di Cristo Gesù. È Lui che ci chiama alle nazioni, è Lui, come abbiamo visto anche nell'anno passato, che per la potenza dello Spirito Santo dentro di noi ci chiama ad essere dei testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Tu sei chiamato a questa chiamata. Questa chiamata non era solo per i 120, per i pochi apostoli, per la Chiesa primitiva scritta indirizzata a loro, no? 2000 anni fa. No, questo è l'appello che Gesù rivolge a noi, a me, a te. Può sembrare troppo grande, ma è proprio così che funziona. Dio ti chiama a una visione di vita molto più grande di te, in modo tale che tu, riconoscendo che da solo non puoi vivere quel tipo di vita, fai affidamento a Lui che può ogni cosa e ti permette di vivere una vita che è molto più grande della tua stessa aspettativa. Io credo che tutti noi siamo d'accordo col dire che, guardandoci indietro, sicuramente se non fosse per Cristo Gesù e la sua salvezza nella nostra vita, noi oggi non ci troveremmo minimamente a vivere quello che oggi viviamo. Io non avrei mai potuto immaginare di vivere quello che vivo oggi. E tutto è dovuto a quella grazia infinita, a quell'amore infinito e a quella potenza e potenziamento infinito che proviene dall'alto, che ci permette, mi permette di vivere una vita che è molto più alta delle mie stesse aspettative. E la mia fiducia è questa, che se Dio ha potuto permettere questo nel percorso passato, questo sarà vero ancora per il percorso futuro. E questo vale anche per noi come Chiesa. Se in passato abbiamo conquistato dei territori gloriosi, ed è vero questo, è mia sicurezza ed è certezza che Dio ci chiama a territori ancora più grandi. Qual è la nostra visione di Chiesa? Se io penso al 2017, c'è un elenco di cose alle quali già stiamo lavorando e per le quali già stiamo sognando. Vorrei elencarvele, però se ne andrebbe tanto tempo e ho ancora pochi minuti a disposizione. Qualcosa ve la voglio dire. Noi desideriamo potenziare come non mai quello che è il lavoro che viene svolto, il ministero che viene svolto nei giovani, perché siamo una Chiesa che crede nelle nuove generazioni, che crede nei giovani. Noi vogliamo vedere gli upside down più rivoluzionari che mai. Noi vogliamo vedere gli upside down che formano piccoli gruppi, upside down che sorgono, emergono come leader e prendono responsabilità nelle loro scuole, nella chiesa, nel discepolato e nel mandato che Dio ha per voi ragazzi oggi. Perché Gesù non ti sta chiamando a crescere a sufficienza, a prendere il diploma e la laurea per servirlo. Dio ti chiama già nello stato in cui ti trovi oggi, quale ragazzo ragazzo, quale ragazza, non ha importanza se hai 14, 15, 19, 27, Dio ti chiama qualsiasi è la tua età, perché Dio crede in te. Amen. Quindi noi crediamo in una Chiesa che investe nei giovani, noi crediamo nella missione. Quest'anno abbiamo viaggi missionari con i 6-8, vogliamo potenziare tutto questo e andare avanti in questa direzione. Vogliamo potenziare i gruppi familiari, quelli che si riuniscono durante la settimana, perché la Chiesa non avviene solo qui e ora, domenica dopo domenica, ma avviene durante la settimana. Noi vogliamo potenziare e per grazia di Dio poter vedere nuovi gruppi familiari che emergono, se Dio vuole, in nuovi altri paesi e città di questa regione. Amen. Noi vogliamo vedere la provincia di Taranto raggiunta, vedere il gruppo che ha Mottola crescere, stabilirsi, essere ancora più influente, più influente che mai, che il 2017 possa essere un anno senza precedenza per l'opera che Dio ci ha affidata a Mottola. Amen. Noi abbiamo aspettativa per quello che sono gli eventi evangelistici che ci stanno davanti. Tutto questo motiva anche il nostro dare, perché lo sapete, lo leggerete anche, vi renderete conto che tutto quello che ci permettiamo di fare durante l'anno dipende anche da quella fiducia straordinaria che mettiamo nel dare straordinariamente per l'evangelizzazione. Abbiamo eventi evangelistici, ci saranno team esterni, ci saranno i Jesus Revolution, team dall'America che probabilmente verranno. Noi vogliamo rendere gli incontri domenicali più speciali che mai, non solo per noi come Chiesa, ma anche per gli ospiti, per i tanti ospiti che vogliamo invitare. Amen. Abbiamo davanti un anno nel quale vogliamo fare nuove produzioni, produzioni musicali, produzioni video, vogliamo arrivare nelle case di più persone con la musica che parla di Gesù e vogliamo crescere nella lode e adorazione attraverso la musica. Dio volendo, realizzeremo un CD di Chiesa quest'anno. Amen. Incoraggiate Fabio e Melissa in questo e tutto il gruppo Lode, ce la faremo ragazzi. Quest'anno avremo la nostra prima conferenza di Chiesa. Ci piace? Voi forse non ci crederete, ma noi abbiamo già prenotato il posto. È una sala che ha una capienza fino a 1000 persone, giusto Sara? Dove Sara? Fino a 1000 persone. Noi ci aspettiamo che come Chiesa avremo l'opportunità di dedicare 2 giorni, l'8 e il 9 dicembre. Abbiamo già le date, abbiamo già tutto molto pronto, e dedicare 2 giorni per crescere in quella visione che Dio ha per noi e invitare le persone da ogni parte, anche della nazione, che ci osserva, che vuole anche conoscerci meglio, invitarli in un'occasione che possa essere di benedizione anche per loro, perché noi vogliamo che la nazione tutta sia benedetta e vada avanti in nuovi territori che Dio ha per noi. L'elenco va avanti, ci sono tante altre cose che noi porteremo avanti quest'anno, però io vorrei che noi comprendessimo che questa è solo la parte superficiale della visione, questo è il prodotto finale, però ci sono livelli più profondi che riguardano la visione di Chiesa. Noi sappiamo che come visione di Chiesa noi siamo orientati e impegnati ad essere un popolo di veri adoratori che si impegna a vivere il grande mandato, a rispondere al grande comandamento, ad essere una Chiesa che ha una visione di grandezza, di espansione. Questo è nel motto, ma anche questo è solo un altro livello. Io vorrei arrivare al cuore della nostra visione. Qual è il cuore della nostra visione? Chi motiva le nostre scelte? Chi è colui che motiva ogni scelta che facciamo come Chiesa? Chi è che ci dà l'orientamento e la direzione? E io vorrei arrivare proprio al cuore che pulsa, e leggere con voi quello che c'è scritto in Matteo, capitolo 16, versetto 18, un verso che conosciamo molto bene, è Gesù che dichiara questo, ascoltate bene, e anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quando Gesù dichiara questa cosa, quando Gesù afferma queste parole di una potenza incredibile, da quel momento in poi la storia non sarà mai più la stessa. L'umanità cambia, il mondo intero comprende che c'è una Chiesa, che Cristo Gesù è molto di più di un uomo, e quello che succede è che la storia, gli anni, i secoli, i millenni non fermano la Chiesa, che continua a crescere. Perché? Perché la Chiesa è un progetto di Dio. La Chiesa è il miracolo che tuttora è in corso e che cresce in ogni parte del mondo, perché Gesù che ha dichiarato: io edificherò la mia Chiesa, io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno scrollare. Io vorrei che noi comprendessimo che la Chiesa non è un progetto nostro, la Chiesa non è un'idea mia. La Chiesa non può essere una cosa guidata, manipolata e diretta da uomini. Ci vuole la collaborazione di uomini, ma chi è l'artefice, chi è l'autore, chi è il fondatore e chi porta avanti questo progetto meraviglioso e questo miracolo è Cristo Gesù. Andando avanti nella lettura delle scritture, noi troviamo che la Chiesa ci viene presentata, la Chiesa diventa qualcosa di continuamente che permane, che è presente in ogni verso. Anzi, addirittura buona parte dei libri che sono del Nuovo Testamento sono indirizzati a chiese locali. L'espansione che Gesù ha profetizzato sta avvenendo, e ci vengono presentate attraverso la Bibbia quelle che sono le immagini che ci danno chiarezza su che cos'è la Chiesa. E io vorrei che noi comprendessimo questo, che prima di poter avere una chiara visione di Chiesa, noi dobbiamo avere una chiara idea, concetto e comprensione dell'identità stessa della Chiesa. È per questo che l'anno scorso abbiamo cominciato questo corso di Consolidamento 2. Se ancora non l'hai fatto, fallo, perché per noi è importante che noi nel fare Chiesa comprendiamo che cosa significa. Perché la Chiesa è un concetto ed è un principio ed è un'idea, è un miracolo che Gesù vuole che i suoi figli, i suoi discepoli comprendano molto bene, perché è continuamente minacciata. Non da potenze esterne, non da cose così grandi, da me e da te. Io e tu siamo il mezzo per la crescita della Chiesa, per lo sviluppo della Chiesa, ma siamo anche il potenziale massimo per la distruzione, la divisione, la rottura della Chiesa. Ora, non sei così importante. Gesù è molto più forte e la Chiesa rimane stabile e continuerà a crescere. Quali sono però le immagini che la parola di Dio ci mostra? Vorrei vedere con voi questa tabella e brevemente dirvi che ci sono almeno 5 metafore della Chiesa che ci illustrano bene che cos'è la Chiesa. La Chiesa è famiglia, la Chiesa è gregge, la Chiesa è casa, la Chiesa è sposa, la Chiesa è corpo. Se hai letto la parola di Dio, se hai letto il Nuovo Testamento, sai benissimo di che cosa stiamo parlando. Sono 5 immagini che sono molto chiare, molto nitide, e ci parlano tutte e 5 di un'appartenenza. Un'appartenenza al popolo di Dio, se pensate alla famiglia, al gregge, alla casa che si edifica, pietre vivente, ma anche e soprattutto, e qui è sempre molto centrale, l'appartenenza a Cristo Gesù. Gesù è il centro della Chiesa, Gesù è l'autore, Gesù è, nel caso della famiglia, colui che è mezzo di adozione. Possiamo vedere la seconda colonna? Gesù è il mezzo di adozione. Se tu entri nella famiglia, è solo grazie a Gesù Cristo. Gesù è il pastore del gregge. Buona notizia per me, non sono io il pastore ultimo di questa chiesa. Gesù è il pastore della sua chiesa. Lui è la pietra angolare, lui regge insieme l'intera casa. È lui che unisce, è lui che tiene stabile, è lui che è pietra angolare della chiesa. Lui è lo sposo, lui è il capo del corpo, delle tante membra, lui è il capo. E questa è una cosa bellissima, perché ci fa comprendere ancora meglio un altro aspetto, che è quello che noi viviamo e ciò che noi beneficiamo in questa illustrazione della Chiesa, che se la Chiesa è famiglia, come è famiglia, Gesù è il mezzo di adozione, noi siamo accolti. Benvenuto a casa, tu sei accolto in famiglia da Cristo Gesù. È Lui il primo che ti accoglie. C'è accesso alla famiglia di Dio. Se tu questa sera non lo sai ancora, la parola di Dio dice che Gesù ti dà il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Gesù ti dà il diritto, l'onore e la benedizione di diventare parte di questa famiglia meravigliosa, dove tu entri in contatto e in relazione personale e intima con colui che è il Padre, il tuo creatore. Ed è lì che cambia tutto. Perché Lui è pastore, noi siamo gregge, questo ci parla del fatto che noi siamo protetti. Perché Lui è pietra angolare e noi siamo la casa, noi comprendiamo che attraverso Cristo Gesù noi siamo uniti. Vi ricordate la scorsa settimana, proprio ho aperto una parentesi di quanto è possibile l'unità, quanto è possibile l'amore in Cristo Gesù. Ti senti sconnesso dalla Chiesa, ti senti separato da altri membri? Beh, non devi cercare necessariamente prima e più di tutto di risolvere con il tuo fratello, di risolvere con la tua sorella, di essere connesso alla Chiesa. Cerca il capo. Cerca lo sposo, cerca la pietra angolare. Io non ho mai visto nella mia storia un credente che è connesso, che ha un'esperienza di intimità con Cristo Gesù nella sua stanzetta, sconnettersi dalla Chiesa, separarsi dai fratelli, criticare e mormorare sulla Chiesa. Questo avviene quando purtroppo tutti noi, io per primo, non siamo in intima connessione con Cristo Gesù. Lui è la pietra angolare, Lui permette a noi di essere uniti e permette molto altro nel suo essere pietra angolare. Però andiamo avanti, Lui è lo sposo, Lui ti ama, tu sei amato, tu sei amata, tu sei voluto, tu sei voluta tanto. Lui ti brama, proprio come un fidanzato brama la sua fidanzata, così Gesù brama te, vuole stare con te, vuole amarti, vuole abbracciarti, vuole baciarti, vuole stare in un'intimità, in un'unione unica. Lui è colui che ti ama più di chiunque al mondo, più di chiunque ti abbia amato su questa terra e più di chiunque ti possa mai amare su questa terra. Lui è il vero, unico, meraviglioso sposo che tu puoi avere. Lui è il capo, noi siamo il corpo ed è per questo che noi siamo guidati e mobilitati. Ora, per raccogliere tutte queste idee e andare insieme davanti alla parola di Dio in uno di quei versi che ci può illustrare il tutto così bene, come solo la parola di Dio fa, vorrei che noi aprissimo la Bibbia, se non ce l'avete, abbiamo sempre la Bibbia gigante che possiamo aprire insieme, in Efesini. Ed Efesini è una lettera meravigliosa che vi incoraggio a leggere. Perché Efesini, forse più di ogni altra lettera, ci presenta con tanta bellezza e con tanta chiarezza lo scopo e il valore di essere parte di una Chiesa. Prima di leggere questi versi, io vorrei che sia chiaro questo. Essendo Gesù così centrale, come l'abbiamo visto in questa tabella, essendo così Gesù così centrale perché Lui che fonda e colui che edifica la Chiesa, colui che permette alla Chiesa di esistere, è così importante che ciascuno di noi comprenda che la Chiesa, che la visione di questa Chiesa è molto semplice. La visione di questa Chiesa, anche per questo nuovo anno, è Cristo Gesù. La nostra visione è Gesù. Se vogliamo arrivare al cuore di ogni cosa che facciamo, di ogni cosa che ci motiva a fare quello che facciamo, il nostro cuore pulsa per colui che è l'autore di tutto ciò che noi siamo e di tutto ciò che viviamo. La nostra visione è Cristo Gesù, perché Lui ha avuto visione per questo, per la sua Chiesa, noi dobbiamo avere visione per Lui. E la nostra affezione, la nostra unità deve essere totale. Ti stai chiedendo qual è la visione che devi avere all'interno della Chiesa, qual è la visione di questa Chiesa, quale sarà la visione di questa Chiesa negli anni? Sarà sempre, unicamente, solamente, principalmente, più di ogni altra cosa, Cristo Gesù. Non degli uomini, non delle idee, non dei progetti, non delle attività, non dei programmi, Cristo Gesù è la cosa più importante ed è l'oggetto di ogni nostra attenzione e di tutta la visione che noi portiamo avanti come Chiesa. E questo non è teoria, perché quando parlo di Gesù, quale visione? Non sto dicendo solo pregare e adorare Gesù, non sto dicendo solo vivere dei tempi dove assimiliamo i suoi insegnamenti. Quando dico che la nostra visione è Gesù, sto parlando del fatto che come Chiesa noi vogliamo portare avanti quella che è la missione che Gesù ha cominciato. Noi vogliamo essere imitatori di Cristo Gesù, noi vogliamo guardare a Gesù per elevarci a quello stile di vita, a quel percorso di vita che Gesù ha vissuto 2000 anni fa e con tanta chiarezza ci viene proposto nella parola di Dio. Ed è per questo che domenica dopo domenica e incontro dopo incontro, quello che anche in questo nuovo anno noi faremo è confrontarci con la parola di Dio, perché noi vogliamo essere la sua Chiesa. In quello che il verso che abbiamo letto è forte, che Gesù dice: io edificherò la mia Chiesa. Ci sono tante chiese e noi dobbiamo comprendere che una Chiesa non è tale, non è la Chiesa di Cristo Gesù semplicemente perché affigge un cartello sopra il proprio edificio di incontro. Una Chiesa non è tale semplicemente perché dice di essere la Chiesa di Cristo Gesù. Una Chiesa è tale nel momento in cui vive Cristo Gesù. Cristo Gesù è al centro di ogni cosa. Cristo Gesù è l'attenzione che viene rivolta da parte di ogni membro della Chiesa. Quindi per noi è fondamentale non solo essere una Chiesa, per noi è fondamentale, e siamo credo molto d'accordo su questo, che noi vogliamo essere la Chiesa di Cristo Gesù. Noi vogliamo poter dire, leggendo quel verso, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno scuotere, noi vogliamo dire quella Chiesa di cui Gesù sta parlando è la mia Chiesa, perché io voglio essere parte di una Chiesa che segue Gesù. Quando è comodo, quando non è comodo, quando ci piace, quando non ci piace, quando è tutto lineare, quando niente è lineare. Noi vogliamo mettere Cristo Gesù al centro. Amen? Vogliamo leggere insieme questo paragrafetto e concludere con la riflessione di queste poche parole, che però sono così importanti. Io non andrò a commentare tutti questi versi, non abbiamo il tempo. Sto per concludere, però io vorrei che noi comprendessimo quanta profondità c'è in queste parole, cogliere possibilmente ogni cosa che la parola di Dio ci sta dicendo attraverso questi sei versi. Leggiamo insieme. Efesini 4, dal versetto 10. Colui che è disceso, sta parlando di Gesù, è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato, ascoltate ora, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Vedete quanto Cristo è centrale in tutto questo? Affinché non siamo più, e qui sta parlando la parola di Dio, di quello che ci siamo detti in queste due settimane, di non essere uomini che mancano di visione, di non essere uomini che mancano di orientamento. Leggete con me, versetto 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma, questo è quello che noi vogliamo vivere. Seguendo la verità, Cristo Gesù, nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Cristo è il centro. Cristo è colui che noi vogliamo vedere, imitare, seguire, dal quale vogliamo dipendere, e la nostra Chiesa vuole avere una visione che mette Lui al centro. Noi vogliamo essere una Chiesa che porta avanti il suo ministero, la sua opera, la sua missione. Noi vogliamo essere i suoi piedi, le sue mani, il suo corpo vivente su questa terra. Noi singolarmente, ognuno attraverso il proprio contributo, vogliamo essere degli uomini che si elevano alla statura di Cristo Gesù, che perdonano come Gesù è stato capace di perdonare, che amano come Gesù è stato capace di amare, che portano vista ai ciechi, liberazione ai prigionieri e portano la buona notizia ai poveri come Gesù lo ha fatto 2000 anni fa. Questa è la Chiesa che noi vogliamo essere. Questa è la Chiesa che noi decidiamo di essere nel 2017. Se questo è quello che tu vuoi vivere, io ti chiedo questa sera di prendere una decisione. Decidi di essere quella parte del corpo unico e irripetibile, perché tu sei unico, perché tu sei unica, che probabilmente puoi fare quello che altri fanno, come, che ne so, guidare un piccolo gruppo, ma come lo guiderai tu? Non lo guiderà nessuno. Come servirai tu il Signore in quello che può essere un compito che tanti altri, nel quale tanti altri servono, sarà unico perché Dio ha messo unicità in te e vuole usare quella tua originalità, quella tua unicità per dare un contributo che permette lo sviluppo completo del suo corpo, che permette l'avanzamento della sua Chiesa su questa terra. Scegli questa sera di essere quel membro che si connette prima di tutto al capo. Non puoi funzionare come mano se non sei comandato dal capo. Funzionerai male, andrai nella tua direzione e non sarà connesso a quella che è la visione che Gesù ha per il suo corpo. Non puoi essere mano se non sei connesso a un braccio, se non sei connesso a una spalla, se non sei connesso ad altre parti del corpo. Quindi decidi questa sera di essere ben connesso non solo al capo che è Cristo Gesù, ma decidi di essere connesso ai ministri, come ci viene presentato, a quella squadra di persone che sono lì per servirti, per in un qualche modo con ogni sforzo portare perfezionamento nella tua vita. Connettiti, non ti disconnettere. Connettiti al tuo fratello, connettiti alla tua sorella e facciamo insieme la differenza, rappresentando su questa terra Cristo Gesù, il nostro Salvatore, che ci dà questo meraviglioso privilegio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Voglio invitare il gruppo Lode, vogliamo cominciare a fare le nostre preghiere, le nostre decisioni davanti a Dio. Non hai bisogno della mia preghiera, hai bisogno di rivolgere tu stesso la tua preghiera a Dio. Lo vogliamo fare in un tempo, in un clima di adorazione, di preghiera. Io voglio chiederti in questo momento di chiudere i tuoi occhi e se tu accetti questa sera quello che è l'appello, qualsiasi sia stato l'appello che lo Spirito Santo ti ha rivolto attraverso queste parole, allora io ti chiedo di alzare le tue braccia, perché non c'è segno più bello che alzare le braccia, perché è un segno di arresa. In questo momento abbiamo bisogno di arrenderci verso colui che è in alto, perché il capo è colui che è il posto più alto del corpo e vogliamo rivolgerci a colui che è in alto per connetterci a lui e dire a lui che noi dipendiamo da lui. Lo vuoi fare con me? Alza le tue braccia cominciamo a pregare, ad adorare. Voglio pregare per te, Signore. Tu vedi la nostra resa, tu vedi la resa dei tuoi figli questa sera. È meraviglioso poter essere qui, guidati dallo Spirito Santo, guidati dalla tua parola, ad allinearci insieme come famiglia, come gregge, a quello che è il piano tuo, la visione tua, e dirti, Gesù, che noi vogliamo essere la tua chiesa, non la chiesa nostra, non il concetto nostro di chiesa. Noi vogliamo essere la tua chiesa, il tuo progetto, ciò che tu hai scelto per noi. E noi in questo momento vogliamo accoglierti nelle nostre vite, dirti che abbiamo bisogno della tua guida, che abbiamo bisogno della tua protezione, che abbiamo bisogno della tua unità, dell'unità che solo tu permetti a noi di vivere, che abbiamo bisogno del tuo amore. Sposo, vieni per abbracciare la tua sposa questa sera. Facci sentire il tuo amore, il tuo calore. Abbiamo bisogno del tuo incoraggiamento anche per quelle scelte più difficili che tu ci stai chiamando a fare. Padre, noi non vogliamo la ribellione, non vogliamo vivere in autonomia, non vogliamo vivere la visione di qualcun altro, non vogliamo appiattirci a quello che è il pensiero comune. Noi vogliamo vivere in dipendenza a te. Noi sappiamo, Gesù, e confessiamo questa sera, che i nostri percorsi peggiori di vita, i nostri peggiori fallimenti sono dovuti alla nostra ribellione a te. E questa sera noi confessiamo che siamo peccatori, ma abbiamo bisogno del tuo perdono, e che mediante il tuo perdono noi vogliamo avere la tua guida. Vogliamo fare quello che solo tu ci dici di fare. Vogliamo fare ogni cosa che ci sembra trasparente secondo quella che è la tua parola. Non vogliamo entrare in zone di penombra, non vogliamo entrare in zone di buio, non vogliamo essere autonomi, vogliamo camminare con te e in te, Cristo Gesù. Grazie per la scelta dei tuoi figli. Vogliamo adorare, Signore. Vogliamo adorare il Signore Gesù insieme. Forza.